Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi. Due di denari. Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. A place to dream about. A wild and beautiful oceanfront escape etched into the New England coastline that has become a treasured sanctuary for birds, animals, flowers, and one of America's most famous families, the Kennedys. The Kennedys. Ma, buongiorno Deborah, come mai dobbiamo cominciare col corso di inglese questa mattina? No, in realtà sarebbe un video, in teoria, ma in radio, come tu sai, non può essere visualizzato, non si può fa essere fatica visto. A vedere i video, sì. Ma è un video veramente meraviglioso che racconta la storia di Red Gate Farm, che è una residenza, una dimora di campagna dove hanno trascorso grandi vacanze i signori Kennedy. Ah, quei Kennedy. Quei Kennedy lì, proprio John, Jackie e tutta la famiglia, che era molto numerosa, perché solo a prendere i fratelli appunto di John, in molti capitava appunto che andassero a trascorrere delle vacanze qui in questa bella villa che sta a Martha's Vineyard, una località di villeggiatura per i più ricchi d'America, dove vanno a trascorrere le loro vacanze i potentissimi d'America. Qual è la notizia? Oggi parliamo di mercato immobiliare. Caroline, la primogenita di John e Jackie, ha messo in vendita la villa per la modica cifra di 65 milioni di dollari. Ma così poco? Come mai? Come mai? Non lo so come mai, ma credo che dovrà ridurlo questo prezzo perché non trova compratori. È troppo alta 65 milioni. Devo dire che secondo me però è meravigliosa. Infatti è un peccato non poter vedere il video per gli appassionati che lo vadano a cercare, perché davvero è un posto meraviglioso. Ma lo twittiamo senz'altro, guarda, lo mettiamo dentro nel Twitter, che è uno dei nostri social che abbiamo a disposizione, insieme al Facebook e anche allo YouTube e all'Instagram. Sì. Mettiamo sul Twitter subito il link, cioè il collegamento per questo video. Allora, nel paradiso di Martha's Vineyard, mi piace tanto pronunciarlo, io ricordo ancora come lo pronunciava Mario Platero, che glielo facevo ripetere in onda un milione di volte. I prezzi calano, il mercato scricchiola. Pensa che anche i coniugi Obama hanno cercato una località di vacanza in questo posto e hanno trovato una villa che hanno acquistato intorno agli 11 milioni di dollari. Ed è una villa molto scontata, perché addirittura il prezzo iniziale chiesto per questa dimora, che poi loro hanno scelto, era di 22 milioni, per cui hanno aspettato che il prezzo scendesse del 50% per poterla comprare. E quindi è a Edgartown nel Massachusetts. Va bene, allora adesso vediamo. Cose più difficili. Faccio una verifica un attimo con le mie banche, vediamo se ho questi 65 milioni, ma penso che si possa calare anche di qualche millino. Senti, io ti vorrei parlare invece di cose più, diciamo, casalinghe. Casalinghe, sì, più casalinghe e anche più economiche, perché direi mi fermerei sui 24 euro. Sì, appunto. Che è l'assicurazione. Non è un caso che io ho utilizzato il termine casalinghe. Che è l'assicurazione per le casalinghe, infatti. Là. Allora, oggi ne parliamo perché entro gennaio c'è il rinnovo che, lo ricordiamo, è obbligatorio per chi svolge l'attività di lavoratore domestico in via autonoma, in via esclusiva, esatto. Grazie, perché mi stavo impappinando sui termini. Lo sai che certi giorni capita a me di avere la cosiddetta patata in bocca, non ti viene la parola che vorresti dire, quindi oggi evidentemente è la mia giornata di prestarti soccorso. E allora bisogna entro gennaio provvedere che cosa bisogna fare, a quali garanzie si può accedere. Lo scopriremo con un esperto di valore mondiale, ma nel senso che è anche una persona che si occupa direttamente di questa assicurazione all'INAIL. Un funzionario dell'INAIL. Peraltro noi la chiamiamo ancora polizza per le casalinghe, ma forse è anche un concetto improprio, perché si tratta esattamente della polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, e infatti per tutti coloro che prestano lavoro esclusivo all'interno delle mura domestiche, questa è una polizza appunto che va sottoscritta obbligatoriamente. niente, c'è una grande campagna anche di comunicazione in corso e a noi è venuto in mente proprio stamattina di trattare l'argomento, sia perché lo facciamo tutti gli anni in questo periodo, ma anche perché oggettivamente stiamo vedendo un po' ovunque lo spot che richiama all'attenzione appunto tutti coloro che devono fare questa sottoscrizione, per cui eccoci qua pronti stamattina. Sappiate che comunque il pubblico più o meno questa mattina per Due Denari è oltre i 7 milioni di persone, cioè nel senso che sono 7.338.000 le casalinghe stimate presenti in Italia, appunto, che fanno questo lavoro domestico in via esclusiva. 800240024 se volete intervenire in diretta, porci delle domande sul tema, oppure 349-238-6666 se volete mandarci dei messaggi SMS o WhatsApp per intervenire sempre sul tema dell'assicurazione per i lavoratori, i lavori domestici. E però prima di tutto questo ci sarà, come al solito, il giornale radio del risparmio, mi immagino. Sì. E anche, non facciamo un po' di meteo borsa per vedere come va? Dai, facciamola, che è già collegato con noi l'altro ospite che preme per raccontarci i temi della settimana. Andiamo. Meteo borsa. Buongiorno e ben ritrovato a Carlo Aloisio, analista finanziario, che ci racconta un po' non solo quello che succede questa mattina, ma come si preannuncia questa settimana finanziaria. Aloisio, buongiorno e buon anno. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buon anno anche a voi. La consueta Polaroid della mattinata, del lunedì mattina. Allora, abbiamo una situazione contrastata, ma l'Europa va benino, consolida i rialzi della settimana scorsa. Venerdì Wall Street ha chiuso in negativo, anche se il Dow Jones nel corso della seduta ha fatto una puntata sopra i 20.000 punti, un livello che non aveva mai visto nel corso della sua storia. È stato diffuso il dato sulla disoccupazione di dicembre. Non è stato particolarmente brillante, ma in termini percentuali il tasso di disoccupazione americano è al 3,5%, siamo sempre ai minimi da 50 anni. Milano meno 0,13% questa mattina. Su Milano abbiamo delle storie da raccontare, c'è la storia di Prismian meno 1,72, di Atlantia meno 1,63, in positivo Banca Generali guadagna quasi 2 punti, STM più 1. Ma complessivamente l'apertura della settimana, Aloisio, cosa ci racconta, quali temi dovremmo tenere sotto osservazione nei prossimi giorni, anche se uno lo abbiamo ormai anticipato in ogni modalità, e cioè dovremmo andare alla firma di questa prima fase 1 dell'intesa commerciale fra Stati Uniti e Cina. Esatto, beh, direi che qua è un po' il perno, il motore della settimana per capire operativamente come si muoveranno i mercati, cioè se avremo una situazione del cosiddetto sell, cioè buy on the rumor and sell on the news, che è uno dei motivi così guida dei mercati, nel senso che la notizia poi cioè i mercati si sono mossi sull'attesa di arrivare a questo accordo anche in maniera positiva, quindi hanno tenuto molto bene e ci sono stati anche degli ottimi comunque scenari quando c'è stati dei momenti di negatività, se vogliamo di base l'ottimismo ha sempre prevalso. Detto questo, quello che ecco, mi preme, sono curioso di vedere dopo questa firma di accordo se ci sarà una forte presa di profitto, quindi magari un attimo di incertezza sui mercati, ma anche una, diciamo, situazione fisiologica che potrebbe anche fare bene, soprattutto per quel che riguarda la borsa americana, che sta continuando, appunto, come dicevate prima, a pompare da parecchio tempo, con nuovi massimi, quindi capire se ci sarà anche una presa di profitto credo che sia il fattore predominante della settimana sulla firma benedetta di questo dato. E poi ripartiamo a vedere i mercati con quello che saranno i dati macro successivi, quindi vari dati che ci accompagneranno nella settimana per quel che riguarda a livello internazionale, quindi trend economico, e poi a livello invece individuale sui dati aziendali che via ci saranno con gli ultimi coi dati dell'ultimo trimestre del 2019. Diciamo che Trump non ha nessun interesse quest'anno a fare in modo che sulla borsa ci sia una forte presa di profitto, come l'ha definita lei, Aloisio, perché sappiamo bene che sta mettendo in pista tutte le armi possibili per avere una riconferma di un secondo mandato, appunto, alle elezioni di novembre, quindi non credo che prenderà alcun rischio. Lei che cosa ne dice? No, su questo sono assolutamente d'accordo. Quando mi riferisco a una presa di profitto intendo dire una marginalità abbastanza limitata, ecco, non un'inversione di tendenza verso il negativo, però ci può anche stare, ecco, in questa fase, per poi se mi chiedono un obiettivo di medio lungo sono d'accordo con lei, salvo sempre le variabili imponderabili che al 2 di gennaio nessuno si aspettava gli attacchi sull'Iran, tutto quello che è successo dopo la prima giornata positiva, abbiamo visto il 3 gennaio i listini avere, diciamo, una negatività abbastanza importante per qualcosa che appunto non si aspettava, l'attacco in Iran. Peraltro, scusi Luigi, una vicenda che, come dire, ha avuto una fiammata e poi è stata subito archiviata dal punto di vista dei mercati, perché le tensioni geopolitiche non sembrano in quell'area lì, non sembrano preoccupare più di tanto. Hanno preoccupato per un giorno, dopodiché è tutto tornato come prima. Ma in questo momento sì. Allora, magari un parallelo di un paio di anni fa mi ricorda molto l'inizio dell'anno, se vi ricordate anche voi, le forti tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, sembravamo quasi un passo da un conflitto, che la flotta americana facesse qualche operazione straordinaria in quella zona, e qualche mese dopo, voglio dire, sì, camminavano a braccetto in un vertice storico da questo punto di vista. Quindi Trump è veramente imprevedibile, come diceva Deborah, in un anno che prevede le elezioni presidenziali, quindi punta a una riconferma, quindi sicuramente i dati economici sono importanti, ma anche qualche punto di politica internazionale, questo sulla Cina in primis, ma è vicino, quindi avremo tutto l'anno, anche qualcosa nella zona medio orientale che lo porti a una rilevanza di statista, così come è stato con la questione della Nord Corea, li faciliterebbe una rielezione anche con diciamo delle basi politiche, non solo economiche. Quindi credo che punti molto a questo, e questo aspetto anche come diceva della tensione che è diminuita in un giro di una seduta o due, direi. Sì, assolutamente, lascia perplessi e capire che cosa ci possa essere dietro. Veramente, ecco, l'imprevedibilità di Trump anche sui mercati in questo aspetto è una delle cose da considerare per i prossimi mesi. Vedremo peraltro adesso come reagiranno un po' tutti i candidati a questa tornata elettorale, con la discesa in campo ormai confermata di Bloomberg, che ha detto: io ho $1 miliardi da spendere per questa mia campagna elettorale. Un po' strano questo suo potrebbe passato. Comprarsi pure lui quella villa lì di cui dicevamo esatto, prima. Io vorrei parlare di altre elezioni però, cioè, o almeno vorrei prendere lo spunto da altre elezioni, quelle regionali, quindi parliamo di cose più piccine, che saranno qui prossime ormai alla fine del mese. E in chiave, ad esempio, di debito pubblico, perché è un momento in cui i rendimenti continuano ad essere bassi anche in territorio negativo per le durate brevi. Abbiamo avuto venerdì 7 miliardi di buoni a 12 mesi con rendimento a meno 0,242%, quindi flessione addirittura di 5 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Come vede questo momento? Capisco che andiamo oltre la settimana per la quale le abbiamo chiesto il giudizio, Aloisio, però in prospettiva, da quel voto lì molti farebbero dipendere anche il futuro, la stabilità, insomma, della coalizione di governo. Beh, è chiaro da questo punto di vista. Allora, in un'ottica generale abbiamo iniziato l'anno con non una forte volatilità, ma certo, in realtà uno spread che si è un pochino assestato più sulla forchetta alta della fine del 2019. In questo momento in tempo reale siamo a più 155 sul Bund, che significa un rendimento sulla curva decennale dell'1,37 circa per cento, e comunque sia dobbiamo sempre ricordare che per quel che riguarda l'Eurozona ce la stiamo giocando con la Grecia, anzi addirittura in questo momento la Grecia è l'1,35, 1,37, quindi siamo in questo momento il paese che dal punto di vista di rendimento sulla curva decennale è il più alto, e questo aspetto, pur in una serie un dato di tasso estremamente basso quindi per le casse del tesoro è importante da tenere conto questa considerazione, nel senso che risultato elettorale che potesse essere interpretato dai mercati come una situazione che possa portare a una criticità politica avrebbe di conseguenza un'accelerazione sicuramente quantomeno per qualche giornata speculativa sullo spread e di conseguenza rialzo dei rendimenti. Questo avviene una settimana, come dicevate, nella scorsa sono ripartite le prime aste del 2020, questa settimana è una settimana importante per il tesoro, ci sono le aste sui titoli a reddito fisso medio-lungo termine. Nel contesto generale dell'anno 2020 non è un anno particolarmente veramente pesante per le casse del tesoro, nel senso che se noi guardiamo il totale dei paesi dell'eurozona, abbiamo circa scadente nel 2020 di titoli superiori ai 700 miliardi all'incirca. Di queste noi abbiamo sicuramente una fetta più alta, intorno ai 195 miliardi, seguiti poi dalla Francia a 170. Quindi diciamo che la liquidità c'è sui mercati per andare a coprire bene queste aste. E quindi non c'è un eccesso di redemption, cosiddetto in termine tecnico, per avere poi una sottoscrizione dei nuovi titoli. È chiaro che in una situazione appunto di criticità politica porterebbe sicuramente un rialzo dei rendimenti. È da vedere adesso, credo che il tesoro si muoverà molto rapidamente in questa prima fase anche per fare appunto fondi, ha allungato già la politica del tesoro negli ultimi anni, la duration dei titoli, quindi portando su scadenze medio-lunghe. Abbiamo sì, si è preferito appunto allungare sì. la durata delle emissioni, 3-7 anni anche di più. Sì, sì, diciamo che a questi tassi di interesse, se prendiamo il BTP a 30 anni ha un rendimento del 2,43, è chiaro che va per investitori istituzionali o fondi pensione, magari è sconsigliabile al privato andare a fare così speculazione su titoli estremamente lunghi, proprio perché la volatilità che possono avere questi titoli può sicuramente fare male se uno non è anche portato a una speculazione anche per quel che riguarda il reddito fisso e i titoli di Stato. Non mi sorprenderei che ci fossero anche nuove emissioni più lunghe. Negli ultimi mesi ci sono state alcuni stati hanno emesso dei titoli anche a 100 anni, quindi potrebbe anche esserci un'emissione magari da parte del tesoro così lunga, proprio indirizzata anche a coprire i fabbisogni dei cosiddetti fondi pensione o istituzionali che necessitano sì. dei tassi importanti. Quindi credo che la politica sarà un po' orientata a portare ancora un allungamento delle scadenze, proprio per il fatto di sfruttare questo momento di tassi ancora bassi. Grazie a Carlo Aloisio, analista finanziario, con noi questa mattina per uno sguardo, una previsione alla settimana dei mercati. Amore, i soldi. E allora siete sempre qui collegati con Two of Coins, due di denari. Dedica in diretta con Bon Jovi. Perché abbiamo scomodato Bon Jovi? Lui urla questo bad medicine, cattiva medicina. Perché, attenzione, sul Sole 24 Ore di oggi la pagina 3 è dedicata proprio alla vicenda. Pago in contanti o non pago in contanti per i bonus, per avere gli sconti del fisco, le detrazioni per le spese mediche. Allora, lì è abbastanza articolato, vi invito poi a prendere visione della pagina del Sole 24 Ore, dove c'è una splendida tabella, una tabellona direi, che dice prestazione per prestazione, dall'acquisto dei farmaci all'acquisto di un macchinario ad altri generi di interventi, visite specialistiche e così via, cosa è necessario pagare in modo tracciabile, cosa si può ancora pagare in contanti. La sostanza è quello che è nel sistema STS, cioè nel sistema tessera sanitaria, che sarebbe quella cosa per cui in farmacia, quando compriamo i medicinali, ci chiedono vuole detrarre e noi gli diamo il tesserino sanitario. Ecco, quello che è lì già in automatico può essere pagato come si vuole. Quello che non è lì nel sistema STS, e ad esempio stiamo parlando di visite specialistiche, prestazioni sanitarie specialistiche, ecco, allora quello lì bisogna pagarlo con mezzi tracciabili. Tutti i particolari, non in cronaca, ma sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, già stamattina c'è il caos a Roma Termini, già dalle 9 nel giornale radio delle 9 abbiamo cominciato a raccontare di questa bella giornata che si è aperta, che si apre appunto per tutti coloro che devono muoversi dalla stazione più importante appunto di Roma, ma vi preannunciamo che anche domani sarà una giornata difficile per chi deve viaggiare. Noi peraltro parleremo di chi ha viaggiato con grande difficoltà a cavallo tra Natale e Capodanno con il nostro Maurizio Caprino, ma domani potrebbe diventare una giornata molto complicata per chi dovrà viaggiare in aereo. aereo perché sono previsti scioperi nazionali che interessano numerose aziende vettori del trasporto aereo, fra cui Air Italy e EasyJet, nonché ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, che pure sciopera per i suoi funzionari, quindi tutti scioperi confermati. Lo hanno dichiarato tutti i sindacati di categoria al termine di un incontro che è stato convocato settimana scorsa al Ministero dei Trasporti. Sono disagi che potrebbero interessare l'intera giornata, per cui siete tutti avvisati, prendete qualche provvedimento nel caso in cui non volete rimanere fermi in aeroporto. E peraltro, comunque, esatto, qualsiasi cosa succeda, state attenti a come parlate. State calmi. Perché quando prendete un volo low cost, magari siete infuriati perché ci sono stati dei disservizi, dei ritardi, eccetera, però non presentate le rimostranze, perché il personale di alcune compagnie, che magari è anche stanco, è sotto pressione eccessiva per le modalità di lavoro, potrebbe rivelarsi alquanto permaloso. A un signore è capitato proprio questo, che il giorno dell'Epifania è stato cacciato dall'aereo perché ha osato pronunciare la parola vergogna nei confronti di uno steward di una di queste compagnie low cost. E allora in questo epiteto, questa parola pronunciata ad alta voce, ha fatto sì che il signore sia stato accompagnato al portellone e lasciato a terra, quindi non gli hanno fatto prendere l'aereo. Naturalmente si è rivolto all'associazione dei consumatori, che ha reso noto la caduto e ovviamente lo critica pesantemente l'associazione Adico. Diciamo che può anche capitare che ci si spazientisca un po' per aerei che partono in ritardo, per altre cose, ma evidentemente deve essere stato particolarmente nervoso per essere stato addirittura allontanato. Senti Mauro, approda anche a Lecce la svolta innescata dalla cosiddetta legge Gadda, la normativa antisprechi che sta trovando piano piano applicazione in tutto il nostro paese. Gli imprenditori più generosi potranno avere sconti sulla Tari del 15% a patto che ne facciano richiesta al comune entro l'anno e che traccino le proprie donazioni alimentari attraverso un'apposita piattaforma che sarà attiva a breve. Questo quantomeno è la promessa che ha fatto l'assessore competente appunto a Lecce. La delibera comunale prevede che le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali di volontariato possano usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Quindi donare fa bene anche al portafoglio, perché riduce la Tari del 15% per quanto riguarda la decisione di Lecce. Senti, sono le 11.30, abbiamo un sacco di notizie, ma è tardissimo. Teniamo per domani? Guarda, andiamo di seguito, pronti via, dillo a due denari e poi ci dici cosa sta succedendo sulle borse. Ottimo. Dillo a due di denari. Mi fa benissimo che non ci sia più, non venga presa in considerazione lo stile di vita che si aveva durante il matrimonio. Le cose cambiano, poi quando si divorzia comunque si diventa entrambi più poveri, quindi mi va tutto bene. Quello che però non mi va bene, da madre di 4 figli, è che i figli sono sempre e solo con la madre. Anche quando il tribunale stabilisce che il padre deve occuparsi dei figli, i padri bellamente se ne fregano. Io e i miei figli li ho cresciuti da sola. Ho dovuto combattere e spendere soldi in tribunale per far rispettare al mio ex marito il versamento della somma dovuta ai figli, non a me, sottolineo ai suoi 4 figli, e in più lui non si è mai occupato dei figli. Quindi purtroppo su questo fronte c'è ancora una grandissima ingiustizia in Italia, grandissima, perché poi nessun giudice può fare qualcosa quando un padre non vuole occuparsi dei figli, quindi alla fine prevale l'amore della madre e il senso di sacrificio. E mentre i nostri ex mariti se ne vanno bellamente in vacanza con le fidanzate, noi invece dedichiamo la nostra vita completamente al lavoro e alla crescita dei nostri figli. Ma se due persone si lasciano perché il marito non è contento del fatto che la moglie non lavori per contribuire alla famiglia e poi gli deve riconoscere anche un assegno perché la donna ha dedicato la sua vita alla famiglia, non pensate che sia un po' ingiusto quando, qualora non ce ne sia bisogno, che la donna si stia a casa per guardare i figli? Chiedo scusa, io ho comprato le birinzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie Manera. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Foto di gattini, foto di canini, un loop di 10 minuti di uno che cade sul ghiaccio, un testo che mi dice a quale verdura assomiglia, un vestito che non ho ancora capito se blu o dorato, e una fattoria virtuale tutta mia. Online puoi fare di tutto, ma perché non fare anche qualcosa di serio? Come l'assicurazione auto con Zurich Connect. La polizza online, veloce e flessibile da 220 euro con tutta l'esperienza svizzera del gruppo Zurich. Perché essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online, da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. GrefoCert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800 425 325 o creditreform.it. Due di denari. Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Ma un uomo sposato, che comunque svolge prevalentemente lui i lavori di casa, è disoccupato, è in cerca di occupazione, deve comunque fare l'assicurazione INAIL per le casalinghe, tra virgolette? Grazie. E abbiamo anche più o meno dello stesso tenore la un'altra domanda. Pensavo che fosse simile, perché in realtà molti messaggi WhatsApp hanno più o meno lo stesso tenore della domanda fatta dall'ascoltatore. C'è chi è a casa in questo momento, magari spera in via provvisoria perché è momentaneamente disoccupato, ma si chiede se sia obbligato in qualche maniera a sottoscrivere questa polizza, perché poi si prende cura delle mura familiari e anche di quello che c'è all'interno delle mura familiari. La domanda poi è una declinazione sempre sui nostri canali abituali, 349-238-6666 per i messaggi SMS e WhatsApp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. Dicevo, una declinazione altra, che è: se sono pensionato, pensionata, e oramai non faccio altro se non occuparmi dei lavori domestici, sono obbligato, obbligata a proteggermi, esatto, assicurazione, tutelarmi. Ci allora mettiamo dentro pure Patrizia dalla provincia di Cremona, così il nostro ospite di questa mattina prende appunti e parte subito a raffica con le risposte agli ascoltatori. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Volevo solamente chiedere, dato che a ottobre io ho ricevuto una lettera dalla INE di un'integrazione alla polizza di ben 13 euro e quest'anno mi è arrivata alla scadenza di gennaio la rata di assicurazione all'INAIL per le casalinghe, che è esattamente raddoppiata, da 12 a 24. Infatti. Non avendo ricevuto nessun avviso di questa, cioè volevo sapere perché, cioè come qual è esattamente l'importo? Certo. L'importo, cioè, ma è proprio aumentata così del doppio. Sì, Patrizia, glielo confermiamo. Allora, chiamiamo subito in caso il nostro ospite. Quello che lei ha ricevuto però in autunno era proprio il conguaglio, per così dire, perché la polizza era aumentata dall'anno scorso, ma l'importo è stato chiesto in due tranche, in due rate, diciamo così, mentre quest'anno viene chiesto tutto in un'unica soluzione. Ma ci spiega tutto molto meglio Alfredo Nicifero, che è vice direttore centrale del rapporto assicurativo INAIL. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Sì, buongiorno a tutti quanti, a tutti i radioascoltatori collegati e a voi in particolare. Sì, effettivamente avete fatto un servizio precisissimo. La ottobre è stata chiesta un'integrazione a valere sull'anno 2019 per la differenza rispetto ai 24 euro previsti per l'incremento del premio assicurativo per le casalinghe a decorrere dal 1 gennaio 2019. La nuova campagna per l'assicurazione prevede un'unica richiesta di 24 euro, ma tengo a precisare che il premio assicurativo, che giustamente la signora collegata che ha posto la domanda dice, è raddoppiato, il premio è raddoppiato perché le prestazioni riconosciute agli assicurati contro gli infortuni in ambito domestico, uomini e donne che siano, sono completamente cambiate, si sono completamente implementate. In sostanza vorrei illustrare direttamente il regime delle prestazioni che prego, dottor Ricifero, vada. Allora, ci spieghi qual è la ratio di questo aumento appunto del premio che bisogna pagare in teoria dall'anno scorso, ma che a tutti scoprono appunto in maniera molto chiara da quest'anno. In maniera molto chiara da quest'anno, ma già l'anno scorso avevamo già esplicitato chiaramente qual era il meccanismo di pagamento del premio. E la sostanza è questa: la polizza assicurativa per gli infortuni in ambito domestico è stata completamente ridisegnata. Prima era una polizza grandi rischi, quindi prevedeva la copertura assicurativa a decorrere dal 27% in poi di invalidità consolidata di postoli permanenti. Con la riforma del 2019 invece le prestazioni, si ha diritto a delle prestazioni poi differenziate a partire dal 6% di invalidità, quindi dal 6% in poi si ha diritto ad una prestazione una tantum pari a 300 euro. Fino al 15%, dal 16% in poi si ha diritto ad una prestazione in rendita per tutta la vita dell'infortunata, addirittura anche una rendita superstiti nel caso in cui l'evento infortunistico possa portare la morte. Ma non solo, si ha diritto anche all'assegno personale continuativo in caso di grandi invalidità, di invalidità particolarmente gravi, di euro 545, il cosiddetto assegno di accompagnamento, ma questo in presenza di menomazione di una certa entità, come è anche stato incrementato l'assegno una tantum in caso di morte, proprio di fronte in occasione di eventi sfortunati come gli eventi mortali, è prevista, oltre alla rendita superstite, anche un assegno una tantum di 10.000 euro, mentre prima era di circa 2.000 euro, quindi è incrementato notevolmente anche questo riconoscimento a favore dei superstiti, oltre ad un assegno ulteriore valido a valere sul fondo gravi infortuni mortali, che cambia a secondo della composizione del nucleo familiare. Quindi in sostanza un altro elemento importante, l'età per aver diritto alla prestazione è passata da 65, l'età massima intendo, da 65 anni a 67 anni di età, quindi potete immaginare come questo enorme miglioramento della tutela ha necessariamente dovuto comportare un adeguamento del premio assicurativo, ma non è un incremento come se fosse una semplice tassa, no, come sapete benissimo. Perché un po' così viene percepita, sì, certo. Assicurativo che deve garantire delle prestazioni in equilibrio del proprio sistema. Allora, dobbiamo chiarire invece l'altro punto, cioè chi è pensionato o pensionata? Benissimo, rispetto alle domande, sì, chi è pensionato o pensionata e non svolge altra attività lavorativa, quindi non è titolare di altre forme di assicurazione obbligatoria, è obbligato ad assicurarsi, però entro il limite massimo di età di 67 anni, quindi... Quindi oltre, se ne ha 68 non si deve più assicurare. Non si deve più assicurare. Una persona che sta a casa, suo malgrado, perché è momentaneamente fuori dal mercato del lavoro, dottor Nicifero, come l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, lui dice io mi sto prendendo cura effettivamente della quotidianità della famiglia, ma vorrei ritrovare lavoro ovviamente, in questo momento però non lavora. È discriminante Perfetto. L'aspetto dell'ammortizzatore sociale? In questo caso assolutamente no, coloro che sono in cassa integrazione o comunque sono in mobilità o in situazioni di disoccupazione devono anzi assicurarsi nel caso in cui si occupino occupano in modo esclusivo e abituale della cura dell'ambiente domestico in cui operano, in cui vivono loro insieme e dei loro familiari. Quindi è una delle circostanze tipiche di obbligo di assicurazione, ma l'obbligo nel senso di tutela della persona che svolge questo tipo di attività è una tutela sociale nell'interesse della persona che si assicura. Non a caso l'istituto proprio quest'anno ha lanciato una campagna di comunicazione, di promozione dell'assicurazione, ma soprattutto di comunicazione dei rischi in cui e delle insidie in cui si può incappare, diciamo, nello svolgimento dell'attività domestica, rilanciando proprio la parola d'ordine di questa campagna è prenditi cura di te. Certo. Come tu, dottor ti prendi cura della tua casa. Si fermi lì perché abbiamo il traffico adesso, ma tra l'altro abbiamo trovato su internet, sulla rete naturalmente, lo spot della vostra campagna. Adesso fra un po' ne faremo anche ascoltare un brano, chissà se è proprio quello che richiama questo concetto è richiamato dal dottor Nicifero poco fa. Dopo ogni il venerdì traffico. A due di denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di denari. Prendersi cura della tua casa è un lavoro, ma chi si prende cura di te? Se ti occupi a tempo pieno della tua casa, Inail ti tutela con l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di infortunio domestico. Costa solo 2 euro al mese, se il reddito è basso è gratuita e adesso copre anche gli incidenti meno gravi. Assicurati entro il 31 gennaio 2020. E questa è la campagna con cui Inail mette a conoscenza tutta la collettività appunto dell'esistenza di questo strumento di protezione, di questa polizza assicurativa che è obbligatorio appunto che tutta una categoria appunto di persone sottoscrivano. Peraltro ci sono anche gli studenti che se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e si occupano dell'ambiente in cui abitano devono in via teorica appunto sottoscrivere questa polizza. Ma in realtà qualcuno si chiede, come fa Amalia che si è chiamata la provincia di Monza Brianza, se è proprio obbligatorio, perché non vorrebbe dei chiarimenti ulteriori sulle prestazioni poi offerte da questa polizza obbligatoria. Amalia, buongiorno. No, niente, in parte ho ascoltato e ha dato delle risposte, nel senso che io sono tantissimi anni che ormai pago questa polizza. Volevo sapere se io non la voglio più pagare, ho sentito che è obbligatoria, ma ho delle sanzioni, perché mi hanno detto che per percepire qualcosa in pratica devi essere quasi morto. No, adesso non è così. Diciamo che esisteva, come ci ha spiegato il dottor Nicifero, grazie a Maria. Infatti. No, esisteva questa soglia del 27%. Allora adesso è difficile stimare perché poi sono i medici che danno le valutazioni. Però io chiedo conferma al dottor Nicifero, 27% è una menomazione importante. Mm-hmm. Non so, potrebbe sì. essere la perdita almeno di una mano, ecco, per capirci. No, non proprio di una mano, addirittura è la perdita ad un'indennità ad una invalidità pari al 28% prima, quindi era una delle prime soglie non abbiamo inteso perché c'è stato un disturbo. Qual è stato? Pronto? No, le dicevo, non è così, la perdita di una mano è una fattispecie abbastanza grave, e addirittura la mano destra vale 70 punti di invalidità. Sì. Era addirittura la perdita di un pollice che dava già diritto ad una prestazione in rendita perché era valutata pari al 28%. Ma adesso è sceso ulteriormente al di sotto delle possibilità di indennizzo, addirittura con la perdita di una falangetta, con 6 punti o 7 punti di invalidità si ha diritto a quella prestazione una tantum di 300 euro a cui facevo riferimento prima, o comunque l'anchilosi a seguito della frattura di un polso, no? L'anchilosi sì. del polso, l'incapacità di avere la piena funzionalità del polso, che corrisponde a un 15% di invalidità, già dà diritto ad una prestazione una tanto, quindi come dire, non corrisponde proprio a verità il fatto che bisognava essere avere morti. Delle menomazioni importanti, sì. certo. Delle menomazioni significative, diciamo, certo. non minime, ma al di sopra del 6% siamo di fronte ad una fattispecie molto, molto ricorrente, purtroppo, e di cui l'istituto si sta facendo carico. E io li voglio arrivare, dottor Nicifero, quanti trattamenti erogati? Glielo posso chiedere perché molti ascoltatori percepiscono questa assicurazione come un'altra gabella, un altro balzello da pagare, sulla cui obbligatorietà in molti non sono tanto convinti, perché molte ascoltatrici ci stanno raccontando: io la pago, ma tutta il giro delle mie amiche non ha neanche idea dell'esistenza di questo strumento, quindi non lo pagano, chi controlla? E quindi queste le domande che ci piace, da cui ci piacerebbe avere risposta: chi controlla se ci sono effettivamente delle sanzioni e quanti trattamenti erogati in questo momento? Allora, chi controlla? Sicuramente l'istituto svolge attività di controllo attraverso l'incrocio con le altre banche dati di cui si può avere la disponibilità, prima fra tutti la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la quale si può tranquillamente individuare se un soggetto è a carico, non a carico, fa parte di un nucleo familiare con più soggetti che lavorano o meno. Quindi l'assicurazione obbligatoria è soprattutto in virtù dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 novembre 2019 abbiamo ulteriormente rafforzato il sistema delle sanzioni. È prevista una somma aggiuntiva in caso di mancato pagamento del premio annuale di 12 euro in più qualora il pagamento sia stato effettuato entro 60 giorni. Se invece si supera i 60 giorni dal pagamento oppure il pagamento non viene completamente effettuato, la sanzione è pari all'ammontare del premio. Quindi poi parliamo sempre di premi minimi, quindi non si può immaginare delle sanzioni di enorme entità rispetto a un premio che è minimo, quindi la sanzione, per così dire, è proporzionata all'entità del premio omesso oppure del premio non pagato. Ma l'istituto, devo dire, che ogni anno eroga a fronte delle richieste di risarcimento, eroga mediamente almeno 50-60 rendite ogni anno, costituisce almeno 50-60 rendite ogni anno. Attualmente abbiamo in gestione circa 1200 rendite da quando è partita l'assicurazione in ambito domestico. E un altro dato importante mi preme sottolineare che annualmente l'istituto eroga oltre 4 milioni di euro a titolo di rendita corrisposta a tutte le casalinghe attualmente in gestione, o rendite dirette o rendite a superstiti. Quindi un impegno notevole che l'istituto pone in essere a fronte, come dicevamo prima, un premio che apparentemente che è sicuramente modico, circa 2 euro al mese, al mese. Però un'altra cosa importante che vale la pena sottolineare, peraltro avete già sottolineato nella vostra scheda, che in situazioni di non abbienza l'assicurazione è gratuita, per cui chi si trova a percepire un reddito al di sotto di 4.648 euro oppure fa parte di un nucleo familiare con un reddito inferiore a 9.296 euro, l'assicurazione è gratuita, basta presentare attraverso i nostri servizi telematici una dichiarazione allegando, ovviamente documentando, i limiti reddituali posseduti per aver diritto all'iscrizione gratuita all'assicurazione contro gli infortuni domestici. Quindi il premio in queste circostanze non si paga e si ha diritto a tutte le prestazioni. In caso di eventi sfortunati si ha diritto a tutte le prestazioni. Allora, per tutti quelli che non hanno capito le caratteristiche della polizza, invitiamo ad andare sul sito dell'INAIL, dove è tutto spiegato con grande chiarezza. Io posso capire che magari stamattina non siamo riusciti a dire tutto quello che era necessario dire, ma sul sito c'è assolutamente tutto. Come si paga, dottor Nicifero, questa assicurazione in 10 secondi? Si paga sicuramente attraverso il nostro portale, accedendo al link di PagoPA, è l'unica funzione attualmente fortemente utilizzata, ma da tempo da tutti gli assicurati. È solo per quest'anno, il nostro portale, esatto. O attraverso le banche, stampando l'avviso PagoPA in banca, la posta, presso i tabaccai, presso i supermercati lì che svolgono questo servizio. Benissimo. In convenzione. Per il bollettino postale, ultimo anno, mi pare di capire che sia quello in corso, dopodiché si deve pagare con le altre modalità. Esatto. www.inail.it. A domani.